Forse c'è un momento di mezzo tra le cose, tra tutte le cose che viviamo. Un momento impercettibile che divide chi eravamo prima da chi saremo tra un attimo. In quel momento lì, però, siamo qualcosa che sta a metà. Ecco, forse è in quell'attimo che dovremmo rimanere un po' di più. Evitare di scappare via da lì, oppure di tornare indietro, appena possibile. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16 e 8 minuti, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Non so se avete esattamente presente qual è la faccia di una persona che sta nel mezzo. Per stare nel mezzo intendo a quando si sta tra due cose, tra una cosa che è finita e tra una cosa che sta cominciando. È una faccia che probabilmente non avete presente, ma ce l'avete avuta anche voi, prima o poi nella vostra vita, e probabilmente più volte. Io l'ho vista stamattina. Stavo facendo colazione al bar e di fianco a me c'erano due donne, due giovani donne che stavano parlando. Ce n'era una che parlava e una che ascoltava. Quella che parlava aveva dei fogli in mano e stava parlando di lavoro a quella che ascoltava. Mentre parlava le diceva quali erano i progetti della sua azienda, le spiegava dove volevano andare, che tipo di lavoro facevano e che erano interessati al suo profilo. Quella che ascoltava non diceva una parola. Le spiegava che loro avrebbero volentieri lavorato con lei, che stavano cercando una figura proprio come la sua e che quindi, se a lei andava, l'avrebbero assunta. Non capita spesso di assistere a dei dialoghi come questi, nel senso che di solito ci si fa parte, no? Si è i protagonisti, nel senso che se capita e si ha la fortuna di trovare un lavoro e ti facciano una proposta, di solito tu sei seduto da questa parte della scrivania, però vederla da fuori, in un bar, faceva un certo effetto, e l'effetto che faceva era proprio per la faccia della ragazza che ascoltava. Era la faccia di chi stava nel mezzo, di chi stava cercando di capire innanzitutto che cosa le stava proponendo quella che parlava con i fogli in mano, ma soprattutto se quello che le stava proponendo era una roba che a lei interessava per poter iniziare qualcosa di nuovo. Beh, a un certo punto sono arrivata a parlare di soldi, ovviamente, come sempre capita visto che si parlava di lavoro, e quando quella che ascoltava finalmente ha fatto la domanda, e la domanda era: va bene, ma quanti soldi ci sono? Quella che parlava ha sorriso e ha fatto la solita faccia che fanno quelli che parlano e parlano di soldi, e cioè, sapete quel pudore che si prova quando si parla di soldi, no? Quando chi deve proporre dei soldi offre dei soldi a qualcuno che sta ascoltando. È quella faccia lì che, sai, non ci sono tantissimi soldi, però a noi farebbe piacere. Poi vedi tu quello che vuoi fare. Ecco, è stata lì che è venuta fuori la faccia di chi era nel mezzo, che era la faccia della ragazza che ascoltava, che ha detto: beh, certo che vedrò cosa fare, vedrò come mi andrà meglio. 80024 0024 349 238 6666. Non so se voi siete nel mezzo di qualcosa e probabilmente non vi rendete conto di che faccia avete in questo momento. Se però siete nel mezzo, avete finito qualcosa e state per cominciarne una nuova, e vale tutto, vale il lavoro, vale l'amore, vale la casa, un po' come nel caso mio, quello che sto vivendo in questo momento, e avete voglia di raccontarmi la vostra faccia e soprattutto in mezzo a cosa siete, 80024 0024. Ho capito poche cose nella mia vita. Una di queste però è che spesso le cose che iniziano si confondono con quelle che finiscono, al punto che quasi non sai dove comincia una e dove l'altra termina. Che so, la spiaggia, ad esempio, è dove inizia il mare o dove finisce la terra. La morte è dove qualcosa inizia o è la fine di tutto. Sì, lo so, queste sono delle grandi banalità, cose a cui non si pensa mai per il semplice fatto che le stiamo vivendo e che quindi ci passiamo attraverso senza nemmeno vederle. Non lo so, sarà però che io mi trovo in questa fase di passaggio ora, una fase che dura da qualche mese per la verità, in cui devo tenere sempre molto a fuoco le cose che faccio, per evitare che perdano di significato. Non lo so, forse non c'è una delle due cose solamente e mai tutte e due insieme. Forse c'è un momento di mezzo tra le cose, tra tutte le cose che viviamo. Un momento impercettibile che divide chi eravamo prima da chi saremo tra un attimo, ma anche in quel momento lì noi siamo qualcosa che sta a metà. Ecco, forse è in quell'attimo che dovremmo rimanere un po' di più. Evitare di scappare via da lì, o di tornare indietro appena possibile. Restare in quella terra che non mi appartiene, un posto in cui io non so chi sono perché non lo sono più e ancora non lo sono diventato, è una cosa che mi spaventa, però che è rivelatoria. Una volta ho letto un'intervista a Keith Jarrett, il pianista jazz, quello che suona da solo per ore, senza spartiti, senza riferimenti. Ecco, lui da oltre 30 anni compone delle musiche che ha in testa e che sono creazioni ogni volta originali, perché non le trascrive e non le può rifare, quindi, cioè non le può rifare nel modo in cui le ha appena suonate. Insomma, fa musica jazz. Keith Jarrett soffre di una malattia che si chiama sindrome da affaticamento cronico, una cosa che è probabilmente causata dall'eccesso di concentrazione che emette durante i concerti dal vivo. Ecco, in questa intervista lui sostiene che l'affaticamento arrivi proprio da quei momenti che lui definisce momenti di passaggio. Cioè, durante il concerto ci sono attimi in cui lui termina un tema musicale, però sente che il pezzo non è ancora finito e si trova proprio in quella terra di nessuno dove non sa ancora che cosa suonerà di lì a poco. Ecco, quando arriva in quel punto lui dice che la cosa migliore da fare non è mettersi a fare virtuosismi o fare particolari ricerche, no, lui cerca una sola cosa, lui cerca una nota. Una sola. Una nota che nasce dal movimento delle sue mani o da qualcosa che gli è risuonato nella pancia, non lo sa nemmeno lui. Ecco, in quella nota lui ci rimane il più possibile. Ne ascolta il suono, cerca di capire da dove arriva, perché è arrivato fino a lì, visto che se è arrivato fino a lì un motivo ci deve essere. Ecco, rimane in ascolto di quella nota fino a che non comincia qualcosa di diverso, che spunta all'improvviso da chissà dove e che dà il via ad un suono nuovo, ad un'altra musica e che racconta un'altra storia. Ecco, il rumore di una casa vuota, una casa nuova da riempire, assomiglia a quella nota. È il suono monotono e ridondante che voglio rimanere ad ascoltare per capire che storia racconterà. Perché il rumore di una casa vuota è quello di qualcosa che finisce, ma è anche di qualcosa che comincia. Giovedì 30 settembre, ore 21:20. Misuriamo la casa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. 5 e 5, quindi 25 qui. Poi, cucina. 1, 2, 3 per 2. Il bagno. 1, 2, 3, quindi 6, 12, 25 prima, 37, e quindi è 25 più 12, 37 più 3, 40, dove sono gli altri 5? Il balcone, tutto in 45 metri quadri. Giovedì 30 settembre, 21 e 22, la mia casa. Stare da solo concilia il pensiero. Anzi, a dire la verità, stare da solo non si fa altro che pensare. L'altra sera mi sono ritrovato in casa, nella casa nuova. Ero da solo e la casa era vuota. Avete mai provato a non pensare a niente? Alcuni dicono sia impossibile. Altri invece sostengono che con un lavoro di meditazione si possa raggiungere proprio quello spazio vuoto che sta in mezzo ai nostri pensieri. Io ieri ero in una casa che non conoscevo, in mezzo a delle pareti spoglie, senza nemmeno un mobile o un quadro, senza nulla che potesse ricordarmi di me, di quello che ero stato e tantomeno di quello che potrei diventare. Mi sono messo ad ascoltare i suoni della casa vuota. E quando ascolti quei suoni ti rendi conto che il silenzio di una casa è l'insieme dei silenzi delle case che gli stanno intorno. Ci sono appartamenti sopra e sotto di me, e persone che ci vivono, che parlano, si muovono, cantano, urlano. Di fronte a casa mia, in quella che prima era la falegnameria, c'è una famiglia con 3 figli. I genitori avranno più o meno la mia età. I bambini giocano attorno al divano, mentre il papà guarda la televisione e la mamma sistema la tavola prima di metterli a letto. Tutto sembra in ordine, perfino il disordine dei giocattoli, delle cose abbandonate dai bambini. Sopra di me vive un ristoratore. L'ho scoperto perché il nome sul citofono è lo stesso del suo ristorante, in cui ho mangiato un paio di volte. Probabilmente torna a casa di notte e la mattina dorme fino a tardi. Di fianco a me c'è un ragazzo di Perugia. Lo sento dal suo accento cantilenante, dalle parole troncate sull'ultima sillaba. Credo che studi, perché lo sento dire cose da solo, a voce alta. Forse ripete la lezione. Sotto di me invece c'è una ragazza che urla al telefono e ride in maniera sguaiata. Forse parla col fidanzato, forse con un'amica. Ecco, questo è il mondo nuovo che mi circonda. E quello in mezzo a cui mi trovo ora. Con la casa vuota, una storia d'amore alle spalle e niente in mano. Ecco, tutto ora deve solo ricominciare. Ho deciso di partire da qui, dalla sincerità. Non so nemmeno se sia un punto di partenza sensato, forse è solo un punto di partenza. Sento che quello che ho fatto fino ad oggi e mi ha portato in questa terra di nessuno al momento è servito, poi si vedrà che cosa porterà. Al momento probabilmente mi porterà all'IKEA a comprare dei mobili nuovi, a fare una spesa per avere la dispensa piena e a ricominciare a frequentare delle persone. Magari conoscere una ragazza, magari prendermi un cane, non lo so. Mentre ascoltavo i rumori dalla mia posizione privilegiata in mezzo a tutto, fissavo la parete bianca di fronte a me, con quel filo di luce gialla che di notte filtra sempre dalle finestre delle città. Improvvisamente ho come visto proiettato sulla parete davanti a me tutto quello che avevo fatto nell'ultimo anno di vita. Ho venduto il mio passato per realizzare i sogni del mio futuro. Ho chiuso i rapporti con quello che ero prima, ma anche con molte delle persone che si trovavano in quel passato. Ho preso la mia vita e le ho dato una scrollata, come si fa in autunno con gli ulivi per raccogliere le olive. Ora sono qui, in mezzo, pronto a ripartire. Da una casa, no? Almeno è già qualcosa. With Jesus Christ, you'll get right up from that chalk outline, and you'll get dolled up, and you'll dress in white. Or to take your place in his chorus line. Sono nel mezzo del momento di decidere se lasciare un lavoro sicuro per uno da costruire da zero. Alberto da Como. Ciao, sono nel mezzo se dimenticare la ragazza incontrata a Monaco lo scorso weekend o se prendere l'auto e ritornare da lei, come mi ha proposto. Claudio. 800240024 oppure 349-238-6666. Se avete la faccia di quelli che si trovano in un momento di mezzo e avete voglia di raccontarmela. La faccia e il momento di mezzo che state vivendo. Nella mia scarsa fantasia e poi nelle mie ossessioni, devo dire che quando penso a qualcosa che sta nel mezzo, penso ad un'immagine che ho visto l'altro giorno su un sito e che è un'illustrazione disegnata da Gipi, che è un illustratore, in questo momento probabilmente è l'illustratore italiano. È un'immagine molto semplice, c'è un cielo azzurro, sullo sfondo c'è una città e poi ci sono due palazzi, in mezzo c'è un cavo teso e in mezzo al cavo c'è un funambolo che tiene in mano un'asta che si bacia con una ragazza, con un vestitino bianco. L'ho messa sul profilo Facebook se volete andare a vederla perché è un'immagine deliziosa. Matteo Caccia, io sono qui. Ecco, questa per me è l'idea, è la prima idea che mi viene quando penso a stare nel mezzo. Mi viene perché questa è un'illustrazione bellissima e perché ho questa fissazione, per chi ha seguito Vendo Tutto dovrebbe ricordarselo, che è quella di camminare sul filo, no? Che è l'immagine di un funambolo. Poi mi è venuto in mente, mentre guardavo questa immagine, che praticamente mentre stavo finendo il programma la scorsa stagione, il 22 di giugno esattamente, ho letto questa notizia. Un funambolo sopra Piazza della Signoria a Firenze. Saranno le ore 20 quando Andrea Loreni inizierà a percorrere il cavo d'acciaio teso tra Palazzo Vecchio e Palazzo Uguccioni, sopra Piazza della Signoria, per una spettacolare passeggiata a 40 metri di altezza. Pronto Andrea? Ciao, buongiorno. Ciao, grazie per essere qui. Grazie a voi. Senti, mi ricordo quando ho letto questa notizia e sono andato a vedere le foto sul tuo sito, che è ilfunambolo.com, giusto? Sì. E poi comunque in giro per internet. E devo dire che la prima immagine che mi viene in mente quando penso davvero a qualcosa che sta nel mezzo è a una persona come te, che ha deciso di fare della sua vita una piccola opera d'arte camminando sospeso nel cielo, in mezzo al cielo praticamente, in mezzo ad un cavo. E quindi io vorrei capire... è una meraviglia per noi che guardiamo, no? Ma com'è che decidi di fare una roba del genere? Ma guarda, per me è una ricerca, deriva da una ricerca personale, poi fortunatamente in qualche modo è anche un lavoro, però è questa ricerca del mezzo, forse, di cui parlavi in trasmissione, perché lì appunto, oltre che sei in mezzo a due palazzi, sei proprio in mezzo tra quello che è e tra quello che sarà, nel senso che poi sono la partenza e l'arrivo, ma in quel momento sei nel presente. Quanto è che dura, in quel caso, intendo dire a Firenze, quanto è durata la traversata? Sarà durata 5-6 minuti. Tu te li ricordi quei 5-6 minuti lì? Ma proprio di quei minuti, sì, qualche spezzone, quanto ti concedi di, che ne so, di guardare giù o di... Ah, perché guardi giù anche? Alcune volte sì, con Firenze siccome era 40 metri era la più alta che ho fatto, e dopo a un certo punto te dovrò vedere come, e ho dato un'occhiata giù. Però no, dipende un po' dalle installazioni, dalla situazione, dal vento. Ma quindi tu, scusami, ripensando a quei momenti, perché poi aspetta, giusto per dare un attimo di dettagli, tu hai camminato quest'estate tra i due palazzi in piazza Firenze, però poi hai fatto a Torino, giusto? Torino all'Arco Olimpico, dentro la Mole Antonelliana, il Castello del Valentino. Quindi insomma, tu lo fai proprio di lavoro questa cosa qua? Sì, sì, sì, fortunatamente è il mio cioè, lavoro. Cioè, di lavoro tu cammini in mezzo alle cose a metri e metri d'altezza? Sì. Scusami, perdonami la prosaicità, ma quanto si guadagna a fare il funambolo? Ma guarda, devo dire che si guadagna bene, nel senso che è una professione molto ricercata, dato che sono l'unico in Italia. Il problema è un po' riuscire a vendere lo spettacolo, comunque è molto impegnativo anche tecnicamente, nel senso che anche con Firenze ci sono stati dei problemi tecnici, è stata rimandata. Adesso non è proprio una cosa immediata. Immagino, che progetti ci sono in ballo? Cioè ci sono delle città, chi è che ti cerca? Le città ti cercano, i festival? Sì, generalmente sono le città o i festival di arte di strada o di circo contemporaneo. Il progetto attuale sarebbe collegare il Colle di Penna e il Colle di Billy, sono 270 metri, alto 90 metri. Siamo andati a fare sopralluogo l'altro anno e vediamo se si riesce a fare giugno l'anno prossimo. Quante ore ti alleni al giorno? Ma guarda, la questione dell'allenamento è un po'... dato che tante cose rientrano nell'allenamento, dall'andare a correre alla preparazione fisica alla meditazione, in qualche modo è tutto allenamento. Sul cavo, proprio sul cavo, va molto a periodi, nel senso che non ho un'installazione all'esterno e diciamo quando sento il bisogno mi mando delle sessioni lunghe. Senti, purtroppo ti devo salutare, Andrea, mi dici solo però che se te lo ricordi, che cosa provi quando sei là sopra? Beh, sono paura e solitudine, so che vinci. Andrea, grazie mille, in bocca al lupo, e la prossima cosa che fai fammela sapere, che vediamo, troviamo un modo per venire. Grazie mille, buona giornata, ciao. Ciao. 80024 0024, se siete nel mezzo. Adesso nel mezzo c'è la borsa. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. La foto è quella di una ragazza. È una ragazza che si trova in un bosco, direi, perché dietro ci sono delle piante e c'è una staccionata, quindi in realtà è probabilmente una passeggiata o in un bosco o proprio al limitare di un bosco, perché è una staccionata regolare costruita a mano dall'uomo in legno. In primo piano però c'è questa ragazza, potrebbe avere tra i 20, i 25 e i 30 anni, è difficile capirlo perché ha sugli occhiali da sole, ha i capelli che le arrivano appena sotto il collo, alle spalle, più o meno, che sono legati con una coda, ha gli occhiali da sole, ha un viso molto regolare, è una bella ragazza. È una ragazza però che non si veste da ragazza, ha su una camicia bianca che potrebbe essere quella di un uomo e un gilet con lo scollo a V, scuro, non capisco se è nero oppure se è blu. Non sta guardando l'obiettivo, sta guardando dritta davanti a sé. In realtà ha la faccia leggermente piegata, è come se non avesse voglia di questa foto. O forse non se n'è proprio accorta. I casi sono due, o non se n'è accorta, ma non credo, perché è proprio l'espressione che hanno le ragazze quando dicono «Dai, non ho voglia della foto, non vengo bene, oppure oggi sono stanca, oppure ho le occhiaie, oppure non ho sugli abiti adatti». Però ha un'espressione simpatica, anche se esattamente non si capisce a cosa stia pensando. Valentina Gabriele, 35 anni, mentre passeggiavo in un tiepido pomeriggio di maggio nel Parco Nazionale del Circeo. Io sono qui. Valentina, tra l'altro, per chi ha buona memoria, è anche, aspetta che lo trovo, Anatroccolo incantato, giusto? Vittoria Mussini se l'è presa a cuore questa questione degli scout e del totem, ricordando che lei era tartaruga onesta, sincera, tartaruga sincera, mentre Tiziano Bonini, io me lo ricordo e al momento non voglio sapere. Paolino Corleone invece era orso laborioso, perché il totem ti rimane ti rimane dentro. Mamma, non, veramente non ti perdonerò mai per non avermi fatto fare gli scout. 800 24 00 24, 349 238 6666. Il profilo Facebook è Matteo Caccia, io sono qui. Se avete voglia di mandarmi la vostra foto, una foto di voi o del posto in cui lavorate o in cui vivete o il luogo in cui vi sentite di essere, lo pubblichiamo sul profilo Facebook del programma, che è mio e del programma, ma soprattutto viene pubblicato ogni giorno sul sito di Radio 24 alla pagina di Io Sono Qui. Quindi Valentina, se siete curiosi di vederla, è in questo momento sul sito di Radio 24. La pagina è Io Sono Qui. C'è la sua faccia un po' incerta, non si... boh, magari voi lo capite se è che non ha voglia di fare la foto o semplicemente non se ne è accorta. 349-238-6666, oppure 800-24-0024. Sono nel mezzo del guado. Da una parte il mio matrimonio, dall'altra una vita da single. Com'è la mia faccia? Mai stata così bella. L'opportunità di scegliere conferisce forza, non debolezza. Claudio. Alberto invece scrive: sto partendo per la Bolivia a dirigere un cantiere forestale. Pochi soldi e credo molte prospettive. Vorrei vedere la tua faccia, Alberto. Mi sposo e cambio città. Vado a 180 km da casa mia. Lascio due genitori soli. Due genitori soli, sono due, non sono da soli, no? Se era uno, era da solo. Lascio due genitori soli e un lavoro da giornalista precario, da 14 anni, 7 dei quali ufficio stampa all'università. Sto nel mezzo, ho paura, ma voglio pensare positivo. Grazie Matteo. Grazie a te, Maria Pia. 800-24-0024, perché di persone che sono nel mezzo ce ne sono e vorrei sentire in quale mezzo sono. Andiamo a Reggio Emilia da Alex. Pronto? Ciao, buongiorno. Ciao Alex, buongiorno. Ciao. A te. Come stai? Bene. Raccontami in mezzo a cosa sei. Guarda, io sono in mezzo a una situazione, purtroppo io sono felicemente sposato, e però da 6 anni a questa parte, io ho 37 anni, mia moglie ne ha 30, abbiamo purtroppo riscontrato un problema, sì, che è appunto mia moglie, nella quale non possiamo concepire figli normalmente, e siamo costretti alla procreazione assistita, all'inseminazione artificiale. E quindi, scusami, ci state provando alla fecondazione assistita da quanto? Da un anno praticamente. Da un annetto. Adesso siamo dopo un anno e mezzo buono di visite prima, ci vogliono anche i quattrini. Quanti quattrini ci vogliono, scusa Alex, per capire? Perché spesso si dice che in Italia costa tanto, sì, e quindi si va all'estero poi, no? Le visite sono più o meno da 200-250 euro alla volta e le attese non sono assolutamente corte. E davanti a questo uno per forza a volte si rivolge anche all'estero perché dicono che è più facile e costa meno. Alex, quanto sì, vi manca voi per arrivare dall'altra parte, quindi? Che progetti avete? Noi praticamente adesso siamo in lista qua a Reggio Emilia, nonostante sono veramente molto preparati, sì, gentili, però le liste d'attesa sono lunghissime. Chiaro. Il problema diventa che se fallisce la prima ci sono altri mesi d'attesa, mentre invece all'estero con, certo, 10.000 euro le liste d'attesa si diminuiscono. E più che altro anche le speranze, le percentuali di successo sono maggiori, perché appunto qua in Italia abbiamo una legge 40 dove impedisce appunto diciamo le fasi di successo. Chiaro, chiaro. Alex, tra, senti, tu dicevi che hai 37 anni, che lavoro fai? Io sono agente di commercio. Quindi sei in giro in questo momento? Sì, in questo momento sì. Sei in macchina? Sì. Dove? Macchina. Tra dove e dove? Tra Parma e Reggio Emilia. Ok, stai tornando a casa quindi? Sì, senti, sì. Alex, ti faccio in bocca al lupo enormi, salutami tua moglie e speriamo vada tutto bene. Speriamo. Anzi, sicuramente andrà tutto bene. Ciao Alex, voglio, grazie. Voglio anche a tutti quelli che sono nella mia posizione. E io anche. Ciao Alex, buona giornata. Buonasera. Ciao, ciao, ciao. Stiamo a Milano, andiamo da Luca, pronto? Sì, ciao Matteo, ciao, sono Luca. Luca. Perfetto, allora siamo noi due. No, niente, innanzitutto seguo la tua trasmissione da parecchi mesi e trovo che hai delle modo di condurla piacevole e delle riflessioni altrettanto piacevoli. Io ti ringrazio, il problema però è che questa è cominciata praticamente da 3 settimane, quindi tu sì, dici... No, io infatti ti seguo, da vedo tutto. Non ti perdi niente. Da marzo, Luca, mi pare marzo, febbraio dell'anno scorso. Era gennaio, ma non fa niente. Luca, veniamo a noi, tu sei nel mezzo di qualcosa. Sì. Io purtroppo sono in una situazione non facile perché sono sposato da tanti anni, da circa 25 anni, e ho conosciuto una ragazza 3 anni fa circa, sì, sì, di cui mi sono innamorato. Capita. E niente, per cui la situazione è comunque non facile, perché io ho sempre voluto bene a mia moglie, però... Luca, mi piace perché abbassi la voce con me come se non volessi farmi sentire, però diciamo che non ti sto sentendo solo io in questo momento. È un modo di difesa. Vabbè, no, lo immagino, ma fammi solo capire, tua moglie sa, lei sa, tu hai saputo. Ok, ha saputo. Ha saputo. Ha saputo, quindi... non è bello, sarebbe stato più bello. Però non ha voluto... come dire, mandarti... interrompere la cosa. Ok, cioè non ti ha mandato quel paese. No, non mi ha mandato quel paese. E quindi ancora peggio, Luca, sei ancora più in difficoltà. Esatto. Benissimo, esatto. E quindi sta solo a te decidere, Luca. Ce l'hai in mano. La tua vita, intendo. No, sì, certo. Luca, senti. Non è facile. Non è facile, però guarda, prova a starci in mezzo e vediamo cosa succede. Luca, ti ringrazio. Grazie. Ciao, buona giornata. Ciao, in bocca al lupo. Anche a te. Ciao. Anche a te. Andiamo a Taranto, invece, da Francesco. Pronto, Francesco? Ciao Matteo, ciao, come stai? Io sto bene, dimmi tu come stai. Io adesso sto bene, diciamo che fino a ieri sera ero una persona che, se mi avessi visto, avresti detto è nel mezzo. Cioè avevi la faccia di quello che era nel mezzo. Assolutamente sì, e non una faccia di quelle buone. Beh, quindi però sei dall'altra parte adesso. Adesso sono dall'altra parte e apprezzo molto questa cosa. E cosa è successo? E auguro a tanti di esserlo, ma due giorni fa una visita di controllo cardiologico alla mia bimba di 6 anni, sì. Mi riscontrano dei gravi problemi. Non ci sono andati alla leggera, dicendomi sostanzialmente che se avessero espresso i loro sospetti, insomma, dovevo preoccuparmi, non avrei dormito, e decido di fare una visita di controllo suggeritami sempre da questo cardiologo, da un cardiologo pediatrico, e ieri sera il responso non ha nulla, non vedo nulla di quello che ha visto. Bene, quanto è durata, quindi, scusami, 2 mesi la cosa? No, 2 giorni. È stata proprio una roba di questa settimana? Sì, fortunatamente è stata una roba che si è conclusa bene e che è stata anche la mia... diciamo angoscia, è stata breve. Guarda Franco, io sono contento perché tu non sei più nel mezzo, ma proprio per questo mi fa ancora più piacere. Ti auguro ogni fortuna. Grazie. Ciao e buona giornata. Ciao. Ciao. Sono proprio in mezzo tra Piacenza e Pavia. Perfetto, proprio in mezzo tra Piacenza e Pavia. Casa dove sono cresciuta e dove c'è mia mamma, la prima. Casa dove sono stata sposata e dove c'è mia figlia che non vedo l'ora di vivere da sola, la seconda. Questo essere nel mezzo mi toglie il sonno. Ciao, Susanna. Oggi ho lasciato la carriera di medico internista per occuparmi a tempo pieno di donne maltrattate. Patrizio. E poi, canzoncina deliziosa. Matteo, che canzone è? È molto facile. Vai sul sito e trovi tutte le canzoni della giornata. Radio24.it alla pagina di Io sono qui. Grazie a Tiziano Bonini, grazie a Paolino Corleoni e a Vittoria Mussini. Io oggi ho risposto a quasi tutte le mail che mi sono arrivati, quasi tutte. Ho finito di leggere un libro, ho ringraziato Simona per l'ospitalità, ma soprattutto ho capito che stare nel mezzo non è poi così male. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?